Simone se ne stava in riva al mare, e tutto a un tratto un uomo lo chiamò, e si voltò indietro per guardarlo, quanto splendore aveva nel suo volto, era Gesù. Il Salvatore, il Redentore che Dio mandò, era Gesù. Il Salvatore, il Redentore che Dio mandò. Or tu, Simone, insieme a tuo fratello, beati siete voi se mi seguirete. Ei non si rifiutò a quell'invito, perché nel cuor sentiva già d'amarlo. Era Gesù il Salvatore, il Redentore che Dio mandò, era Gesù, il Salvatore, il Redentore che Dio mandò. Si è mai visto, egli era sempre pronto a perdonare ogni malato che gli si accostava, con la sua mano toccando lo usava. Era Gesù il Salvatore, il Redentore che Dio mandò, era Gesù il Salvatore, il Redentore che Dio mandò. Non solo in Galilea si è palesato, anch'io nel cammino l'ho incontrato, con dolce voce al cuor m'ha sussurrato, per te un posto in cielo ho preparato. Era Gesù il Salvatore, il Redentore che Dio mandò, era Gesù il Salvatore, il Redentore che Dio mandò.